gli autisti e lavoratori anche. Lo scorso 27 di novembre c'è stata la prima assemblea di costituzione, insomma, dell'associazione Ambiamenti, che è l'associazione, insomma, dei lavoratori che Michele, insomma, è riuscita a mettere insieme. Io appunto ti lascio la parola su questo, Michele, insomma, sull'associazione. È nata, che cosa si vuole fare, cosa si propone? Sì, allora sicuramente con l'assemblea del 27 di novembre è avvenuto il concepimento. Ora siamo in una fase embrionale, diciamo che già con il 16 di dicembre contiamo di poter avere un elenco proprio di tutti i lavoratori che entreranno a farne parte. Come hai detto tu, questa associazione, che non è assolutamente un sindacato, si chiama Cambiamenti, proprio dal singolo di Vasco Rossi che ci ha accompagnato durante queste settimane. M410, M sta per movimento, 410 invece perché proprio è stata la settimana dal 4 al 10 novembre che ci ha fatto conoscere proprio dai media e dall'opinione pubblica. Una cosa che io tenevo a precisare è che all'interno di questa associazione ci sono tutti i lavoratori dell'ATAC, nel senso che qui dobbiamo cominciare un pochino a scardinare quella che è l'idea degli autisti. Sicuramente gli autisti hanno dei grandi disagi, e come ce li hanno gli autisti, ce li hanno i macchinisti della Roma Lido, Roma Viterbo, Roma Giardinetti, e della metro A e della metro B. Quindi noi dobbiamo entrare nell'ottica che siamo davvero tutti lavoratori, che dobbiamo unirci. Noi stiamo facendo delle votazioni interne per vedere quali categorie inserire, ma personalmente io sono assolutamente d'accordo nell'inserire tutti, perché veramente se abbiamo una possibilità di contrastare questa idea di privatizzazione che è stata palese, proprio che si è evinta fortemente nel programma, per esempio, di Porta a Porta, dove hanno partecipato rappresentanti sia di partiti di destra che di partiti di sinistra. Probabilmente è solo l'unione di noi lavoratori con l'unione degli utenti ai quali siamo sempre a fianco. Allora, quindi, innanzitutto ricordiamo, noi siamo onorati anche solo all'idea che i macchinisti si stiano avvicinando a questa nostra associazione, perché i macchinisti sono il cosiddetto zoccolo duro dell'azienda, sono un comparto assolutamente unito, e l'azienda ha sempre lavorato sul divide et impera tra macchinisti e autisti, proprio perché una nostra unione sarebbe devastante. Diciamo che il comparto dei macchinisti ha una situazione nevralgica, anche loro come noi hanno forti problemi legati alla mancanza di personale. Perché questo? Perché appunto hanno una carenza d'organico pare e patta, cioè nella stessa misura in cui ce l'abbiamo noi autisti di autobus. Loro poi in particolare, perché io, diciamo, come tanti sanno, insomma, sono nuova di queste argomentazioni, cioè io la notte sono una che studia medicina, però sto prendendo contatti, sto cercando di capire le problematiche di ogni tipo di categoria, e diciamo ho parlato con dei colleghi della Roma Giardinetti, i quali mi hanno riferito di un parco treni del 1923 con cabine guida fatiscenti, e che mettono proprio in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori, non coprono le esigenze che ci sono. Insomma, ci sono banchine non a norma, la linea è ormai lasciata abbandonata da parte dell'azienda, i macchinisti sono solo 65 che espletano un servizio ormai allo stremo, diciamo si sobbarcano proprio di più responsabilità di quante in realtà già non dovrebbero averne. A questi poi aggiungiamo per esempio i verificatori, anche i verificatori vogliono entrare a far parte dell'associazione. Perché? Perché i verificatori, allora innanzitutto ricordiamo, come dicevano anche lì al programma i politici, ci sono solo 65 verificatori, quindi qui si vuole dimostrare che l'azienda ATAC, Dario, sta in crisi massiva a causa della gente onesta che non paga il biglietto. Ci saranno anche i disonesti, ma nella maggior parte dei casi... Questa poi, ecco, se vuoi la posso interrompere, insomma, no, magari se vuoi continuare, però. Ok, quindi ci sono i verificatori che hanno tantissimi disagi, è vero, non fanno lo stesso lavoro dell'autista, ma anche loro hanno un contratto integrativo a quello nazionale dove sono stati bloccati gli scatti di anzianità. Manca l'indennità di cassa, che a mio dire è gravissimo, perché comunque loro riscuotono soldi in contanti per il pagamento delle multe. Manca l'indennità di galleria, loro lavorano sotto la metro. Sono polizia amministrativa, ma non vengono pagati come polizia amministrativa, subiscono aggressione aggressioni verbali e fisiche quanto e più di noi, insomma. Quindi anche loro pagano lo scotto di tutti i disservizi aziendali come noi. Di conseguenza la loro presenza, così come quella dei parcheggiatori, dei meccanici, degli operai, che assolutamente, ecco, sono fondamentali per portare avanti questa azienda, è una presenza, a mio dire, assolutamente gradita. Ripeto, poi verrà confermato il 16, però insomma l'unica arma che abbiamo per contrastare questa politica, questo vertice aziendale che è ormai in direzione della privatizzazione, è quello di unirci tra di noi. E ripeto, noi siamo onorati di avere anche solo l'idea che i macchinisti possano essere con noi. No, riguardo appunto a quello che dicevi, è su Porta a Porta. Io spero che nessun ascoltatore guardi Porta a Porta, però insomma la comicità dei politici ormai, insomma, è una cosa conclamata cioè la scusa che si vuole portare avanti del fatto che ora i debiti dell'ATAC sono debiti che vanno avanti, perché, cioè, che si accumulano perché gli utenti non pagano il biglietto, facciamo proprio ridere. Perché già solamente il fatto che i 70 milioni di euro di biglietti falsi che si sono rubati illegalmente, questo sì, lo possiamo incendiare a dire di qual è la legittimità, la legalità, l'illegalità e quant'altro, vuol dire che gli utenti questi biglietti comunque li compravano. E come comunque diceva Luciano, bisogna cominciare a fare un ragionamento su questi biglietti. No, ma poi è proprio il messaggio sbagliato che passa. Cioè, io posso capire che va bene, dobbiamo controllare, i cittadini devono essere onesti e devono assolutamente pagare il biglietto, ma se l'ATAC si trova in questa situazione di crisi totale, di collasso totale, è perché l'amministrazione è stata vergognosa sino a questo momento. Cioè, qui dovremmo vedere gli stipendi a 6-0, dovremmo vedere la quantità di amministrativo, si potrebbero veramente elencare manuali enciclopedici su queste problematiche, insomma. Perfetto, ma non diamo la responsabilità ai cittadini, non facciamo passare questo messaggio, perché è una vergogna assoluta. Allora, c'è una telefonata che è in onda, pronto? Sì, pronto, sono collega, sì, da Ferro Tranviere di Roma. Volevo, per quanto riguarda Porta a Porta, fa dire che la signora lì, non so neanche come si chiama, neanche la voglio sapere, che ha parlato di crisi, di default a Biancofiore. Non ci rendiamo conto, voi non vi rendete conto che andiamo a finire per stracci, per modo di dire, perché siamo, lo Stato va in default. Ma come? Per 20 anni si sono mangiati tutto. E noi ci vengono a noi di fare i sacrifici e di toglierci due spicci mensili e di farci veramente senza dignità. Cioè, questa poi di Italo. Ma che c'entra Italo? Cioè, non c'entra Italo col trasporto pubblico di Roma? Che c'entra il fatto che i dipendenti non vengono schiavizzati? No, sicuramente non vengono schiavizzati di Italo, ma sicuramente prenderanno due spicci, poverini, e lavoreranno sicuramente molte più ore rispetto a una dignitosa vita lavorativa. E poi, niente, volevo dire che bisognava, come al solito, lo ripeto Michela, contrastare ancora più forte e dire a Beffa, signor Beffa, io dico questo, questo e questo. Guarda, no, tu hai ragione. Questo, se non me ne vado, io me ne vado, se non mi far dire quello che dico io me ne vado. E quella signora lì, ripeto, la Bianco, come si chiama? Biancofiore. Ma non si doveva proprio, non dovevamo proprio farla parlare, cioè parla lei, parla, per 20 anni si sono mangiati tutto. E ci vengono a dire a noi che siamo delle forze e quindi bisogna. La comunità europea, cara Biancofiore, ti chiede in primis. Di abbassarvi lo stipendio, di togliere le pensioni d'oro, non vi chiede di privatizzare le municipalizzate, in primis vi chiede di abbassarvi lo stipendio, cari politici. Vabbè, tutto questo non lo voglio appena altri più. Grazie. Ciao, grazie. Un abbraccione. Guardate, cioè io la cosa di Porta a Porta, per carità, nel senso che avete visto tutti, è stato proprio lampante che questi ci hanno fatto andare lì, non è che loro non te lo dicono prima, quindi io mi rifiuto da oggi in poi ad andare di nuovo nei salottini di questa specie, perché comunque vogliono solo fare audience. E qui la rivoluzione la dobbiamo fare nelle piazze, la dobbiamo fare con la gente, la dobbiamo fare magari nelle radio che ci danno la possibilità di parlare. Lì loro lo verbalizzano, Biancofiore, gli altri formigoni e la signora, a un certo punto non dicono: io di ATAC non so niente, mi hanno invitata per parlare di università e per parlare di biglietti. Nei limiti delle mie possibilità sono riuscita a portare il discorso su quelle che erano le nostre problematiche, insomma hanno ammesso di non sapere assolutamente niente, ma non è possibile andare in questi salotti perché non ti fanno parlare, quindi a noi non interessa minimamente, insomma. Fra l'altro c'è da dire appunto la vergogna della politica. Noi prima di andare con la chiamata facciamo proprio sinteticamente un'altra volta, e lo ripeteremo sempre, qual è la composizione del debito dell'ATAC. L'ATAC ha un debito di 1,6 miliardi di euro, di cui ricordiamo 70 milioni sono stati fregati ai cittadini, ai lavoratori, agli utenti eccetera, dai biglietti falsi, e nessuno si vergogna di questo. 70 all'anno. Per 10 anni sono 700 milioni di euro, che è già la metà del debito dell'ATAC. Cioè il debito dell'ATAC è 1,6, 700 milioni è la metà quasi, più 14 milioni l'anno per i dirigenti, per i primi di produzione e per gli stipendi esorbitanti che comunque paga veramente il presidente. Sono vergognosi, abbiamo rasentato il ridicolo, perché comunque queste persone sono scollate con la vita reale, cioè non si rendono conto di quella che è la vita dei cittadini, degli utenti, e parlano assolutamente da soli. Ci sta un'altra telefonata, quindi prego chi è all'ascolto, chi ha il telefono, di intervenire. Pronto? Pronto? Sì, vai. Ciao, buongiorno. Sono un collega di Michela, mi chiamo Ciro. Scusate, sto in streaming, quindi sento un po' strano il ritorno di voce. Vi ascolto in streaming tramite il computer. Sì. Niente, praticamente io volevo soltanto cercare di rafforzare il discorso di Michela per quanto riguarda proprio l'unione della gente, perché non dobbiamo fare la fine degli altri, che a furia di dividerci per sindacato, per partito politico, per squadra della quale noi tifiamo, tutto il resto, cioè ci si suddivide e basta. Invece l'unione di intenti deve essere la cosa basilare, e quella la diciamo anche agli utenti. Ma io adesso parlo da autista, dico, non ci compete a noi parlare di queste cose, di soldi rubati o meno. Quando poi la magistratura fa il suo lavoro vedremo, e speriamo che vada come deve andare a finire realmente, perché è meglio non entrare in certi argomenti per quanto ci riguarda come a lavoratori. Però è lampante davanti a tutti che un'azienda di 13.000 persone, se ha tra macchinisti, autisti, varie forze lavorative, tra virgolette quelle pratiche, che producono a livello pratico, siamo nemmeno 8.000 persone, quindi la risposta si dà da sola di questo default aziendale. Invece da utente, perché vorrei ricordare a tutti gli utenti, noi siamo anche utenti, io sono quello che aveva il manifesto, sia da utente che da conducente, il disagio è permanente. Voi ci avete visto anche lì a Prenestina con gli utenti a manifestare. È proprio questo che voglio dire, da utente, io che abito in zona Cilia, per raggiungere il posto di lavoro, per dire il deposito a 4 km, se io non prendo la macchina e sono quasi obbligato, io ci impiego 40 minuti con due autobus che fanno il giro a mo' di trottola. Cioè, c'è qualcosa proprio di sbagliato. Per arrivare ad Ostia, a prendere l'autobus e prendere un trenino degli anni 30, ci vogliono circa 40 minuti, se ti dice male. Se ti dice bene, 30 minuti stai a Ostia e sono 10 chilometri. Quindi gli errori sono alla base, ma da anni, e non vengono mai affrontati realmente. Io, cioè, non, poi ci tengo a dirlo a tutti, io domani vado a Firenze, perché anche l'autista fiorentino è un auto ferrotranviere. Poi domenica prossima magari sarà un tifoso contro la mia squadra del cuore, ma domenica è calcio, oggi è il lavoro, è la nostra vita, il nostro futuro, il nostro presente e futuro delle nostre famiglie. E adesso, eccola, non so se l'hai sentita, questa sì, è il futuro della mia famiglia, la bimba che strilla, scusate. Prego, prego. No. Niente, buon lavoro a tutti. Ciao. Ragazzi, non disuniamoci. Ciao. Non disuniamoci. Ciao. Per questioni personali, avanti dritta. Ciao a tutti, grazie Michela. Ciao. No, no, l'unico aspetto su cui forse vale la pena però ribadire meglio il concetto è che è chiaro quanto invece non bisognerebbe aspettare poi quelle che sono le decisioni prese dagli organi giudicanti, no? Per vari motivi, da una parte perché non è assolutamente detto che poi le cose effettivamente vadano il verso giusto, anche perché quell'inchiesta, di cui immagino all'interno di ATAC si sapeva già da tempo immemore, esatto, è stata per molto tempo coperta, e la procura non ha mai pensato di aprire alcun fascicolo, e solo quando evidentemente tutto ciò è montato a livelli quasi incontenibili che qualcuno ha voluto occuparsene, anche perché c'è stato, no, questo servizio, questa inchiesta giornalistica e via dicendo. Per cui attenzione, bisogna, no, fra l'altro, al contrario, prendere la palla al balzo e con un certo punto di vista, insomma, ribadire, rinfacciare all'azienda questo tipo di atteggiamento, no, di comportamenti, di ruberie. Cioè, fra l'altro, basta andare su internet un quarto d'ora e vedere tutti questi dati. Non è che ci vuole una laurea in economia o in diritto per capire. Certo. No, io l'unica cosa che volevo dire a Ciro è che assolutamente sono d'accordissimo con lui. Ci dobbiamo unire tutti in maniera massiva, perché veramente gli unici artefici del nostro fallimento possiamo essere solo ed esclusivamente noi. Ai vertici aziendali, alla politica, è rimasto solo forse il tentativo di tentare appunto di comprarci. Noi non siamo in vendita, noi siamo tanti, noi siamo uniti, noi siamo giovani, belli, stanchi e incazzati. L'unica cosa che possiamo fare è tentare di contrastare tutti insieme questo tipo di movimento che ormai ha preso piede. Domani saremo a Firenze, saremo in tanti e procederemo tutti insieme contro un processo che ormai sembra essere dilagante. Ci stiamo giocando 30 anni di vita e lo faremo veramente uniti e compatti. C'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, sono un utente dell'ATAC. Volevo dire due cose velocissime. Innanzitutto, porta a porta, non voglio sacrificare il sonno. Però è grave che determinati politici, innanzitutto inquisiti, passano il tempo più negli studi televisivi che nell'esplitare il loro mandato, tipo Formigoni. Poi una domanda banale, ma un'azienda qualsiasi avesse lo stesso comportamento dell'ATAC, sarebbe subito inquisita a parte dal tribunale, ma anche dall'ispettorato del lavoro, anche dalla motorizzazione per via dei mezzi, soprattutto per queste assunzioni, queste consulenze. Non riesco ancora a domandarmi come anche nell'ambito, a parte il tribunale, nella regione Lazio ancora si mandi avanti questa amministrazione piuttosto che impugnare soprattutto queste assunzioni a livello di amministrazione, che non c'è necessità. Domanda molto banale, però non riesco a spiegarmi questo. Poi la massima solidarietà nei confronti degli autisti che convivete bene o male con noi, anche se qualche volta ci può essere uno screzio. Vi saluto, buona giornata, ciao. Ciao, grazie. Come gli rispondi? Gli rispondi che questa è un'azienda politicizzata, che comunque ha l'interesse politico. Noi abbiamo visto come questi 70 milioni annui per 13 anni sono serviti, sembra, pare, forse, non si sa, sono comunque serviti per finanziare i partiti politici. Quindi comunque finché ci sarà la politica come parte integrante di questa azienda, secondo me sarà molto dura poter aspirare alla trasparenza e alla pulizia. Noi stiamo cercando di fare quello che è il nostro piccolo. Ripeto, l'unica arma che abbiamo è quella di stare uniti, di stare insieme, soprattutto con gli utenti, di andare a manifestare proprio anche sotto al Campidoglio, insomma fare le cose insieme e tentare di dare un messaggio per una discontinuità. Solo che poi noi siamo molto delusi, perché comunque Marino, quando ha preso posizione, aveva parlato di discontinuità in ATAC. Ci sembra che le stesse persone che erano presenti con la passata amministrazione, quell'amministrazione, quella giunta che ha mandato al collasso questo tipo di azienda, ad oggi sono ancora lì, sono ancora stati confermati. C'è roba che se un cittadino normale ruba una mela, un altro po' lo mettono in prigione. Qui veramente abbiamo delle cose davanti agli occhi che sono vergognose, invece stanno tutti lì attaccati alla poltrona. Quello che dice il signore è giustissimo. Non hanno la più pallida idea di quella che sia questa azienda, i politici non hanno la più pallida idea di quella che sia la vita reale. Proprio lì non capivano come il biglietto costa 1,50 euro. Qui c'è gente che non può permettersi la macchina, che deve andare a mangiare alla Caritas. E dell'altro ieri la notizia di due coniugi di 60 anni che hanno provato a suicidarsi all'interno di una macchina per problemi economici. E qui ancora che si ride e si scherza sulle idiozie. Quindi abbiamo solo noi l'arma in mano per poter contrastare questa politica vergognosa a 360 gradi. Sì, pronto. Pronto, buongiorno a tutti. Sono Mario, sono un tassista e volevo portare la mia solidarietà a tutti gli autisti dell'ATAC e a tutti gli autisti in lotta, anche perché servizio pubblico sono anch'io e sostanzialmente ci divide la tipologia del servizio, sì, ci divide il mezzo, che loro è più grande, quindi forse a volte anche più faticoso, ma per il resto siamo assolutamente vicini alla loro lotta. Grazie. Vi ringraziamo totalmente per niente, questo. Cioè, ci siamo anche noi, non sembra, ma ci siamo, ecco. Va bene, grazie, un saluto. Ciao. Senti, io volevo, visto che già abbiamo insomma passato mezz'ora, ci stiamo gli ultimi 20 minuti, 25 minuti, sulle cose materiali, insomma, di mobilitazione da mettere in campo, eccetera, in questo mese di dicembre, che è un mese abbastanza caldo rispetto alle problematiche di cui stiamo parlando sulla privatizzazione, eccetera. Insomma, l'idea da parte delle strutture di movimento, insomma, della lotta per la casa, eccetera, di scendere in piazza insieme agli autisti, ai lavoratori, per fare un grande corteo, è un'idea che si sta preparando, vediamo se ci stanno le condizioni per poter fare un grande corteo insieme che parli di mobilità e trasporto, che vada dai problemi dei lavoratori ai problemi degli utenti, che sappia mettere insieme i comitati dei pendolari, che già appunto l'altra volta sono scesi, però appunto per quello che diceva Michela, bisogna essere uniti su questa problematica, uniti, perché solo questo riesce insomma a darci una forza reale per poter porre un problema a questa città, un problema a questa città che parla del suo servizio di mobilità, il servizio di idee e mobilità è un diritto come il diritto allo studio, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. C'è anche a mobilità, questo aspetto ce lo dimentichiamo sempre, però insomma l'idea, vediamo di verificarla, di fare un grande corteo prima di Natale che metta con le spalle al muro il sindaco sulla questione mobilità, un diktat di non privatizzazione intanto rispetto al servizio pubblico, che già stanno cominciando appunto a parlarne, lo dicevamo all'inizio, insomma già Moretti con Bus Italia ha fatto i primi incontri col vertice dell'ATAC. Bisogna cominciare a dare pure noi una risposta tutti insieme, utenti, autisti, lavoratori, comitati, dei pendolari, eccetera, perché appunto questo potrebbe essere una mossa, diciamo, che noi cominciamo a dare da soli in maniera auto-organizzata, con i partiti e con i sindacati, che se vogliono venire si mettono in fondo al corteo, ma prima ci stanno i lavoratori, prima ci stanno gli utenti, prima ci stanno quelli che prendono l'autobus tutti i giorni e lo portano. No, assolutamente Dario, questa cosa che ci stai proponendo è fantastica. Noi ne abbiamo avuto una parvenza appoggiando, diciamo, la manifestazione dei macchinisti della Roma Lido sotto Prenestina, eravamo alcune centinaia, ma insomma noi vorremmo proprio vedere l'unione vera, l'unione massiva, sia da parte di tutti gli utenti, sia da parte di tutti i lavoratori. Ora naturalmente ognuno ha i propri problemi, i propri turni, ma se davvero riusciremo ad organizzare questo tipo di corteo a nome dei lavoratori, è importantissimo esserci, perché l'unico modo di dare visibilità è essere nelle piazze e poter parlare direttamente con gli utenti, perché lì non c'è mediazione che tenga, non c'è salottino di Vespa, non c'è salottino di Piazza Pulita, lì ci siamo noi che con le lacrime, il sudore e il sangue ci stiamo veramente giocando il nostro futuro. Ancora telefonate, pronto? Ciao, buongiorno a voi. Proprio sostenendo quanto diceva Dario adesso, da ieri è la notizia ovviamente che il signor Moretti, che ovviamente ha in mano anche un pezzo del TPL, del trasporto pubblico locale, che si avvia e vuole diventare addirittura qualcuno che... Vi ricordate la recente proposta che doveva acquisire addirittura l'Italia, no? Quindi per fare sinergia in tutto il mondo della mobilità. Da ieri è notizia che ci sono centinaia di corse dei treni pendolari tagliate in 10 regioni. E questa fa lo scopa ovviamente con qual è l'indirizzo di questo governo e l'indirizzo delle amministrazioni locali prevalenti. Io voglio invitare la compagna che sta lì con voi a cogliere l'occasione, intanto qui a Roma, di quello che la vicenda di Genova ci ha insegnato e che domani si riverbererà a Firenze. Sapete che domani parte lo sciopero di tutta la giornata a Firenze, è uno sciopero che non rispetta le regole della limitazione del diritto di sciopero, che vede l'insieme dei cittadini essere a combattere per una mobilità sostenibile. Credo che ce ne sia oggi all'interno della categoria, a partire dai 5 giorni di sciopero a Genova e della anche forma addirittura maldestra con cui è stata gestita la conclusione, ci si poteva aspettare quantomeno un no, che era estremamente indicativo, e quindi i lavoratori hanno necessità non solo di lottare ma di portare a casa anche i risultati, perché questi risultati vengono aggiunti rilanciati un po' in tutte le realtà del trasporto pubblico locale. Credo che c'è l'occasione in questa stagione, ora, da Torino giù fino a Palermo, è mia conoscenza che ci sono realtà ovviamente di natura antagonista all'interno del trasporto pubblico, quello per porre le condizioni di una grande iniziativa di lotta che da molto, ma io quello che ricordo io, da oltre 35 anni non è stata mai fatta un'iniziativa nazionale, perché stante la limitazione del diritto di sciopero e la garanzia delle fasce sociali agli autoferrotranvieri è stato sempre impedito di poter avere un unico punto di concentramento. Certo. E quindi la necessità di dimostrare questo, in cui ci fosse la possibilità di dimostrare da parte dei cittadini e delle altre realtà che combattono per tanti bisogni, di un'unica congiunzione, ma innanzitutto di un grande sciopero generale nazionale, perché ponendo dall'interno della categoria il problema del potenziamento del trasporto pubblico, perché Genova c'ha il valore perché pone immediatamente il problema del trasporto pubblico locale. Sono sette anni o sei che non si rinnova il contratto nazionale, si va avanti a spigolature e una fregatura continua. Quindi aver posto direttamente le mani nel piatto è il problema del trasporto pubblico locale, il suo potenziamento, la scelta ovviamente all'interno di queste metropoli, di queste città cementificate, di avere un trasporto pubblico adeguato alla bisogna, lo raccontava adesso anche il tassista e altri ancora e via di seguito, in virtù del fatto che se tu invece continui a privatizzare le cosiddette iniziali parti periferiche, vedi Roma con la società Tevere, vedi Genova sulle alture, vedi Milano con l'Interland eccetera, beh, tutto questo diventa... Chi lo garantisce più il trasporto? Chi lo garantisce più le tariffe sociali? Non lo garantisce più nessuno. E tutto questo, finisco ovviamente, è possibile addirittura un enorme risparmio. Il risparmio parte dall'eliminazione dei consigli di amministrazione. I consigli di amministrazione sono un prodotto della società che è cominciata ad avvenire a partire dall'inizio degli anni 90, quando il privato era bello e si sono diventate invece che le gestioni a partire dagli assessorati ai servizi pubblici, bastava mettere, come dire, un dirigente a dirigere l'ADAC, un direttore generale, chiamiamolo così, eccetera. Invece hanno fatto i consigli di amministrazione, dentro i consigli di amministrazione ci hanno buttato tanti di quei papponi che vanno da stipendi dalle 250.000 euro fino ai 65, 70, 90.000 euro, io dico poco ovviamente, eccetera, e quindi abbiamo calcolato che eliminando tutti i consigli di amministrazione di tutti i servizi pubblici si arriva a risparmiare ogni anno 90 miliardi. È una cifra enorme, voglio dire, che con cui si potrebbe potenziare non solo il servizio pubblico, cambiare tutti o gran parte dei bus, recuperando ancora di più la cura del ferro. Ho visto certe fotografie della fine dell'Ottocento, su Piazza Venezia c'erano tre corsie tram, tra cui uno andava in salita verso Via Nazionale, ma se potrebbe fallire ad Dio da questo punto di vista, quantomeno eliminare tutta la città in pieno di smog eccetera, garanzie ovviamente le circolari per tutti i quartieri di Roma ovviamente eccetera. E la cosa per concludere, visto che si sta votando il bilancio come al solito con 10.000 difficoltà, ma anche perché non c'hanno le idee chiare, ovvero l'unica idea chiare sono lo sperpero dei quattrini e via di seguito. Vi ricordate che Alemanno l'abbiamo bocciato a partire dall'anno scorso, mentre voleva privatizzare la CEA, aveva intenzione, l'altro obiettivo sensibile è quello di fare un'unica holding delle società del comune, ovviamente ficcando dentro un'unica società privata, la Holding Roma, tutte le società annesse, ATAC, AMA, ACEA, eccetera, eccetera, in modo da avere un piatto ricco mece picco, c'era più capacità di far mazzette da tutti i punti di vista. Questo va vietato assolutamente, perché laddove ho sentito qualche rumors che il signor Marino e qualcun altro vorrebbe riproporre quello, se non è zuppa è pan bagnato. E allora noi bisogna che ci svegliamo collettivamente. Intanto un saluto alla compagna che sta lì, a tutti coloro i quali prendono l'ardire di rompere e di far fuoco sul quartier generale, ma c'è necessità appunto di indicare in questo momento quella che è la strada principale, che i lavoratori di Genova ieri, domani quelli di Firenze, mi auguro tra presto quelli di Roma, possono sapere indicare. Buona giornata. Ciao, grazie. A voi, grazie. No, sicuramente, assolutamente sì. Noi domani andremo a Firenze proprio a manifestare con i colleghi di Firenze. E la cosa che dice lui da Torino a Palermo è assolutamente veritiera. Noi riceviamo mail tutti i giorni dai colleghi di Torino e Palermo. Il movimento nazionale è partito, nel senso che qui propongono la privatizzazione. Noi stiamo rispondendo con un movimento nazionale. Vediamo come sarà l'evolversi della situazione. Intanto la cosa principale è unirci noi qui a Roma, autisti, macchinisti, operai, e meccanici e quant'altro, insomma, in base al referendum interno che stiamo facendo. È fondamentale fare questa associazione, questo gruppo unito su Roma, per poter poi comunicare con forza con tutte le altre città che presentano i nostri stessi problemi, andare con delle delegazioni, come accadrà domani, in tutte le altre città d'Italia, ed unirci tutti insieme contro questo movimento, che sarebbe devastante e per la cittadinanza italiana, che aveva già espresso il suo parere contrario, sfavorevole contro le privatizzazioni qualche anno fa, con il referendum che c'era stato, sia proprio però per i lavoratori, per le condizioni dei lavoratori, che andrebbero solo e sicuramente a peggiorare. No, è chiaro, insomma, io invito anche gli ascoltatori a misurarsi su questa proposta, insomma, perché è chiaro che prima che arrivi la botta, perché molti fra lavoratori, molti utenti, eccetera, aspettano di muoversi magari quando arriva la ghigliottina sulla testa, prima che arrivi, visto che appunto già in tutta Italia cominciano i fermenti, Genova è stato da questo punto di vista il capofila contro una privatizzazione che ricordiamo è scritta ed è stata votata sul decreto liberalizzazioni del governo Monti, che va avanti, c'è in un crescendo dal 94 con Maccanico, cioè anche con i decreti che ha fatto Maccanico dopo nel 96, eccetera, oggi presidente della Liguria, che tanto elogia quell'accordo meschino votato in maniera meschina con i lavoratori della MT di Genova. Ricordiamo che appunto la privatizzazione è già un editto di legge, cioè già si vuole fare per andare a fare cassa, a ricolmare i bilanci dei debiti fatti con le ruberie dei dirigenti e della politica in questo paese. E infatti, insomma, gli interventi quasi a babbo morto praticamente da parte degli organi inquirenti sembrano più, come dire, no? Preparare il terreno esattamente. Affinché poi ci sia da una parte dell'opinione pubblica una sorta, no, di adesione indotta ai processi di privatizzazione. Bravissimo. Piuttosto che andare a scoperchiare il pentolone. Bravissimo. Che era già abbastanza scoperto, insomma. No, infatti questo è quello che sta succedendo, quindi prima che arriva a mannaia cerchiamo di mettere appunto con le spalle al muro il sindaco di questa città, cerchiamo di scendere insieme autisti e utenti. Questa è una proposta che vogliamo portare avanti. Io l'ultima domanda che ti volevo fare, Michela, rispetto alle scelte, insomma, tattiche, strategiche che volete prendere come associazione. Insomma, io ho avuto l'onore, insomma, di fare l'osservatore esterno, l'unico, quindi, insieme a Marco, che ha visto il nascere di questa associazione. Insomma, è chiaro che l'unità è un passaggio, insomma, che si deve fare, assolutamente necessario, come dicevi tu, Michele. Insomma, questo mi trovo assolutamente d'accordo, perché l'ATAC è una di tutti. Poi no, una domanda che ti volevo fare era appunto, voi avete detto, avete già dichiarato sui giornali, oltre all'assemblea eccetera, che dal 17 in poi comincerete, insomma, con degli scioperi bianchi. Di cosa si tratta, insomma, come è trattato l'elemento sciopero visto dalle presentazioni? Allora no, non mi piace nemmeno chiamarlo uno sciopero, perché di fatto non è uno sciopero, cioè noi siamo un'associazione che non ha mediazione né politica né sindacale, che significa che noi non abbiamo il potere di richiedere uno sciopero. Scioperi che tra l'altro indetti dai sindacati da anni con le fasce orarie che non hanno assolutamente sortito nessun tipo di come si può dire, non hanno di effetto, di effetto appunto proprio da nessun punto di vista. Invece noi con quello che abbiamo proposto dal 4 al 10 novembre abbiamo sicuramente ottenuto molto più di quello che hanno fatto i sindacati, che ricordiamo non ci tutelano, non ci rappresentano in questo momento, assolutamente non ci piacciono. Quello che noi vogliamo fare è innanzitutto riproporre la protesta di novembre, ossia garantire solo il lavoro ordinario e rispettare nei limiti del possibile, perché io ricordo che nessuno chiederà mai ai colleghi che lavorano a Tor Bella Monaco, con tutto il rispetto per la zona di Tor Bella Monaco, ma insomma veramente lì applicare il codice della strada a puntino potrebbe essere un problema. Però nei limiti del possibile, nella massima sicurezza, cercando di non andare contro le regole del codice della strada, facendo tutte le fermate per bene, sicuramente creeremo dei disagi mastodontici. Ricordiamo che speriamo che i macchinisti siano con noi, il che significa che il ruolo del macchinista è molto più delicato, ecco perché sono proprio la punta di diamante di questa forma di protesta, perché se anche il macchinista si garantisce solo il lavoro ordinario, può causare molti più danni di noi autisti, innanzitutto perché lì lo straordinario copre il 60% del servizio, a differenza dell'autobus dove invece il servizio è il 35% a straordinario. Ma poi per i problemi di sicurezza, metro e trenini, nel momento in cui mancano anche solo uno o due treni, proprio il servizio viene chiuso. Quindi ad ora questa sarà la nostra forma di protesta, sempre se prima non accade che invece Marino si svegli da questo letargo invalidante, da questo coma reversibile, scende per parlare con i lavoratori e non più con questi sindacati che sono rappresentativi, e ci viene a chiedere quali sono le nostre richieste. Nessuno dice che in tre giorni debbano assumere mille persone tra gli autisti, nessuno dice che devono comprare gli autobus nuovi domani, qualcuno direbbe che si dovrebbero svegliare e darci i nostri soldi, insomma sicuramente queste sono le nostre richieste. Però se già dessero un segno concreto come l'assunzione immediata dei 115 interinali formati, pronti, che devono solo firmare un contratto a tempo indeterminato, perché noi abbiamo un bisogno assoluto ed immediato di queste unità sul personale viaggiante, sicuramente noi potremmo ricontrattare questo tipo di protesta dal 17 al 24 di dicembre. Siccome nessuno si muove e tutto tace, noi faremo questa protesta chiedendo scusa totale agli utenti, ma ricordando loro che lo stiamo facendo anche prima di tutto per i cittadini e per la loro sicurezza, invitandoli a partecipare alla protesta, cercando di creare momenti di congiunzione, insomma, fra i comitati degli utenti e i lavoratori, insomma, a maggior ragione su questo. Allora mandiamo uno stacco per poi avviarci alla conclusioni. Chiusura. Out of me. Now it's Va bene, allora andiamo in chiusura, visto che mancano pochi minuti al giornale radio di Radio Onda Rossa. Andiamo in chiusura con Micaela, insomma, qui in studio con noi, Micaela Quintavalle, autista dell'ATAC. Insomma, oggi abbiamo cercato di focalizzare più che i problemi una discussione sul che fare, insomma, sul da farsi da qui a questo mese, insomma. Micaela, insomma, ha annunciato già diverse volte la necessità, insomma, di cominciare a creare momenti di mobilitazione per gli autisti, insomma, dal 16 in poi, insomma, cominceranno l'applicazione delle regole dal, insomma, 17, sì. Dal 17 in poi, il 16 c'è... il 16 ci sarà la seconda assemblea con tutti gli autisti che vorranno, ecco, prendere parte all'associazione Cambiamenti M410. Ricordiamo che per aderire all'associazione non serve assolutamente essere privi della tessera sindacale o di qualsiasi altra tessera. Noi non siamo nessuno per mettere dei diktat, noi cercheremo di dare una valida alternativa con questo tipo di associazione. Potranno assolutamente aderire tutti i lavoratori, e ricordiamo il referendum interno, ma insomma la direzione sembra quella di essere diciamo quella di ammettere tutti quanti. Ricordiamo che, a differenza dell'altra volta dove comunque era un po' fuori mano come luogo perché si trovava in zona Casalotti, questa volta sarà molto più facilmente raggiungibile al Teatro Don Orione, poi vi dirò tutti i dettagli, il 16 dicembre alle 15:30, proprio quindi per portare questo concepimento avvenuto il 27 di novembre, quindi per operare, diciamo, il passaggio tra la fase embrionale alla fase proprio fetale, quindi con la nascita di questo movimento al quale io tengo tantissimo e come me spero tutti quanti voi. Ok, poi naturalmente l'idea, insomma, di costruire, insomma, un corteo, vediamo se ci stanno le condizioni, insomma, fattive e materiali, però un corteo prima di delle festività di Natale, che magari riesce a coincidere con gli inizi della vostra protesta, insomma, vediamo, in cui tutti insieme in maniera unitaria la cittadinanza, lavoratori, utenti, noi saremmo onorati di scendere in piazza al fianco dei cittadini, va sotto il Campidoglio chiedendo un incontro, vediamo come, insomma, per mettere, appunto, già con le spalle al muro il sindaco, per dire che la città di Roma non vuole un trasporto privatizzato, anzi io lanciare anche di più, visto che le nostre parole d'ordine sono state sempre queste, insomma, un trasporto gratuito è possibile, lo è già in Svezia, lo è già in Francia in alcune città, lo è in Germania in alcune città. Mi sembra un'utopia realizzabile da realizzare, ma insomma, intanto assolutamente alla privatizzazione insieme a tutti i cittadini di Roma e d'Italia. Esattamente, insomma. Quindi noi andiamo verso la chiusura, insomma, non so se c'è una chiamata che sta arrivando, insomma, io cerchiamo di stare un attimo in linea, appunto, ricordando che domani a Firenze i lavoratori inizieranno lo sciopero, come ricordava l'ascoltatore prima, Vincenzo, inizieranno uno sciopero in cui gli autoferrotranvieri entreranno in sciopero, entreranno in una forma di illegalità, senza paura, perché le forme c'è, poi la discussione sarebbe ampia, però alcune volte la legalità è lo strumento per far fare le cose, insomma, ai politicanti e ai padroni. A volte stare nell'illegalità significa parlare di legittimità del proprio posto di lavoro, legittimità di un servizio pubblico. Abbiamo una chiamata, pronto? Pronto, ciao. Vai. Premesso che io sono, diciamo, un utente del trasporto pubblico, nonché anche un ciclista di questa città. Comunque mi risulta che ci sono stati degli studi di settore, la cosa mi sembra anche che è girata diciamo su varie fonti di informazione, che praticamente tutto la spesa della bigliettazione ormai è superiore all'importo che proviene dalla bigliettazione stessa per il servizio. Quindi, diciamo, per quanto riguarda il trasporto di superficie, chiaramente non stiamo qui parlando del trasporto sotterraneo, del metropolitano, eccetera. Per quanto riguarda il trasporto di superficie, ripeto, il costo di tutta l'ambaradam della bigliettazione è superiore all'importo che la bigliettazione stessa dà come contributo, diciamo, al servizio. No, vabbè, questo non te lo so confermare naturalmente da qui, però è chiaro che comunque già quello che possiamo confermare è che, leggendo, invito anche gli autisti a leggerselo, soprattutto i lavoratori oltre che gli utenti, il piano industriale lanciato 2 anni fa parla del bilancio, insomma, di come è composto il bilancio, eccetera. La bigliettazione incide comunque su un 15-20% di tutto il monte, diciamo, diciamo salariale, scusate, no, tutto il monte della composizione del bilancio in ATAC. Quindi già si potrebbe anche fare a meno di questo 15% se lo Stato, invece di dare i soldi ai banche, e darebbe ai servizi pubblici, insomma. Sì, no, ma a prescindere dai finanziamenti, è proprio il costo di tutta la gestione della bigliettazione con i controlli, eccetera, eccetera, è praticamente superiore a quello che è l'importo che viene dalla bigliettazione per quanto riguarda il trasporto di superficie esclusivamente. Quindi è una cosa pure da ragionare nei termini diciamo di una gratuità di quello che deve essere il trasporto pubblico di superficie. Per il resto sono d'accordo con tutto quello che è stato detto. Avanti con l'unione tra utenti e lavoratori. Ciao, grazie davvero. Buona giornata a tutti.